un angelo rinchiuso nel giardino dell'orgoglio, dove tutto si confonde tra le nebbie del ricordo. C'è un angelo perduto accanto a me. Prigioniero di un passato che non dorme. Nell'autunno dei miei giorni, nel tramonto dei miei sogni, nella quiete del mattino, è con me. Nello spirito del mondo, nel silenzio che c'è intorno, sono per volare. Le sue braccia sono aperte, ma non per perdonare. C'è un angelo perduto accanto a me. Prigioniero di un passato che ritorna. Nell'autunno dei miei giorni, nel tramonto dei miei sogni, nella quiete del mattino, dentro i petali di un fiore. Percepisco il suo respiro e la pace del suo cuore. Mi avvicino dolcemente con timore. Cercando di trovare le parole.